Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento anche oggi con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Anche oggi un tema che potrebbe toccare chiunque di noi, parliamo di multe. Credo che sia la categoria più vessata, quella degli automobilisti, perché ogni volta che c'è da andare a pescare soldi, o si alza la benzina o il caro parcheggi o quant'altro, insomma, alla fine chi ha una macchina alla fine dell'anno, facendo un po' di conti, vede che spende un botto, come si dice. Certamente, soprattutto se si parla di multe, quando ci sono le amministrazioni comunali che ormai hanno pensato che il modo migliore per rimpinguare le casse è quello proprio di falcidiare le famiglie, attivando anche una serie di dispositivi che sono veramente osceni, soprattutto quando questi vengono posti dopo aver modificato una viabilità e le persone che ci abitano o che erano abituate tutti i giorni a percorrere certe zone si trovano improvvisamente con le telecamere e di conseguenza con decine e decine di multe di cui ogni anno l'Adico comunque è sempre in prima linea per cercare di aiutare queste famiglie. So che tu hai anche dei casi specifici che magari ci vuoi raccontare. L'occasione in questo caso riguarda Mestre, ma è un problema che riguarda un po' tutte le città, Padova, Treviso, ma in qualunque città d'Italia, ormai i comuni sono sempre più abituati a utilizzare questi dispositivi ZTL che impediscono l'accesso alle auto in certe zone e questo lo troviamo anche giusto, ma nel caso specifico quando non c'è una buona viabilità oppure peggio non c'è una cartellonistica che sia chiara, uniforme per tutte queste apparecchiature dove vengono collocate, chiaramente i numeri dimostrano come alla fine le famiglie sono le uniche a rimetterci in queste decisioni. Famiglie che a volte si rivolgono all'Adico, che hanno anche 20, 30, 40, ma addirittura 90 contravvenzioni, o per colpa certamente loro, ma anche a detta di molte persone che si trovano per esempio a essere studenti, si trovano essere anziani che magari non prestano molta attenzione e vanno ad accudire i nipoti tutti i giorni, o come anche altre apparecchiature, per esempio il velocard che ti rileva al transito di un semaforo arancione e che questi noi abbiamo sempre contestato ritenendo il contasecondi l'unico dispositivo adatto per fare prevenzione. Ecco, anche questa è una cosa che concordo pienamente, il fatto dei contasecondi nei semafori credo che sia di un'utilità mostruosa. Allora Carlo, parliamo di un signore che di multe ne ha beccate quante in questo caso? Noi abbiamo avuto l'altro giorno un signore che ha beccato 30 transiti su una zona di accesso limitato che lo è diventato dopo tanti anni a sua insaputa, ma poi ne abbiamo un altro che sta prendendo circa un centinaio di cui già si sono rivolti a noi disperati, perché la prima cosa che viene da pensare quando queste persone vengono qui è dire come farò a pagarle. Pensiamo 100 multe e parliamo di importi di 8-9 mila euro come 30 multe di circa 3 mila euro. Situazioni che certamente anche chi si occupa di viabilità dovrebbe un attimino valutare, ma soprattutto, e qua puntiamo sempre il dito nel caso solo specifico, riteniamo che chi adotti queste apparecchiature non lo fa per interessi della comunità. Oggi siamo su una situazione in cui i centri storici dei paesi stanno morendo, non ci sono parcheggi, i parcheggi sono a pagamento, nelle città storiche si fa sempre più fatica ad accedere perché comunque i valichi sono praticamente impossibili da varcare se non per chi abita e conosce le stradine e chi ne beneficia a questo sono solo i centri commerciali. Purtroppo multa che anche le persone magari non sanno come poter fare ricorso, di cui tante volte sbagliano anche a farle per decorrenza dei termini. Ecco, questa è una cosa molto importante. Io penso che poi se uno ha preso 100 multe sempre sullo stesso posto proprio vuol dire che o ha voglia di farsi del male o proprio poveretto non se ne accorge, quindi magari sarebbe il caso di andare a mettere mano a questa cosa, una situazione difficile e imbarazzante. sì, l'Adico ha sempre avuto una grandissima attività nei confronti di queste famiglie che prendevano multe in tutti questi anni. Purtroppo non è un argomento che a noi ci entusiasma affrontare, perché significa fare ricorsi davanti ai giudici. Molte volte si costituiscono anche dei comitati, perché scopriamo che essere coinvolti sono i residenti magari anziché i foresti, però certamente sono in situazioni che sarebbe ora veramente di far cessare, perché riteniamo che i vigili dovrebbero essere utilizzati in maniera diversa e che il significato di questi dispositivi dovrebbe essere quello di fare prevenzione. In realtà oggi tutto questo non avviene. Abbiamo accennato per esempio il contasecondi, è l'unico dispositivo efficace, ma siccome non multa gli automobilisti, per i comuni diventa solo un oggetto inutile. Quindi mettere le colonnine, gli autovelox, le telecamere nascosti in centro dei paesi o dove sono delle zone pressoché, non dico quasi inaccessibili, ma comunque zone dove magari passano gli studenti, come magari è capitato anche vicino alle vicinanze di ospedali dove ci sono famiglie che andavano a trovare dei cari o degli amici ricoverati, certamente non capiamo che significato ha, soprattutto visto che la casistica non riguarda tutto un farabutto, ma riguardano tutte persone normali che hanno abituato a transitare per anni e anni e anni, che improvvisamente si vedono vietati a poterlo fare. Ecco, mi viene da pensare che quindi potrebbe essere un argomento per una campagna elettorale da sindaco, quella di togliere alcuni di questi controlli che multano e iniziare a mettere, come hai detto tu, per esempio i contasecondi. Pensateci, cittadini, e chi magari si vuole candidare a sindaco di qualche città o paese. Grazie quindi all'Adico, ricordo che l'Adico è sempre a disposizione, c'è un sito associazionedifesaconsumatori.it. grazie a te Carlo, l'appuntamento è fra due giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.